Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Non so se era un bell'uomo, sicuramente un grandissimo cantautore, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e ve lo propongo perché fioriscono le iniziative in questi giorni, dato che sono passati ben 3 anni da quando se n'è andato Lucio Dalla, quel 2 marzo 2012. Oggi tra l'altro sarebbe stato il suo 72esimo compleanno, quindi parleremo anche di alcune iniziative che sono in corso in questi giorni per ricordarlo. Ci occuperemo anche del viaggio, ovviamente, che Renzi sta facendo a est tra Ucraina e Russia. C'è di mezzo anche l'omicidio del dissidente, dell'oppositore di Putin. Vedremo un po' come si comporterà Renzi, anche se chiaramente non ci aspettiamo grandi mosse in questo senso. E poi parleremo anche di una scoperta scientifica evoluzionistica. Sapete che siamo molto molto più vecchi di quanto possiate pensare, non individualmente, però come genere umano abbiamo 700.000 anni, pare più di quelli che pensavamo. E poi ci occuperemo ovviamente di politica, quella non manca più o meno mai, quasi mai, perché c'è stata ieri abbiamo avuto Fico Effetto Notte, vi ricordate, che diceva sulla RAI apriamo al PD, a chi vuole rivoluzionare insomma la governance del servizio pubblico, se ci sono insomma degli elementi di sintonia che possiamo condividere. Oggi c'è stata poi la svolta del leader del Movimento 5 Stelle, Grillo, che ha detto su Cittadinanza e RAI possiamo confrontarci con il centro-sinistra, e pare che PD e SEL siano piuttosto aperti. Voi cosa ne pensate? Ecco qual è la domanda che vi pongo questa sera per la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure per i messaggi al 349-238-6666. Come valutate questa apertura di Grillo al centro-sinistra, quindi PDSL, e pare la risposta favorevole di entrambi questi partiti? 349-238-6666, il numero per gli sms, ve lo ripeto, 349-238-6666. E poi sempre lì, lo sapete, a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno, 365 giorni su 365, la pagina Facebook di Effetto Notte. Ma andiamo con la giornata. E partiamo con la giustizia. La maggioranza si spacca sulla prescrizione e slitta di 2 settimane l'approdo in Senato del disegno di legge anticorruzione. Il conflitto nella Lega Nord, in Veneto il partito verso la rottura. Il viaggio est di Renzi, il Presidente del Consiglio va a Kiev e poi a Mosca e chiede rispetto per gli accordi e la sovranità dell'Ucraina. Intanto ci sono le prime immagini dei killer di Nemtsov, sono 2 caucasici. Immigrazione, 10 migranti annegano nel naufragio di un gommone, l'Unione Europea dice questo è un problema comune, l'emergenza va gestita cooperando anche con le dittature. Oggi sarebbe stato il compleanno di Lucio Dalla, molte le iniziative in ricordo del cantautore scomparso 3 anni fa. Scoperta dell'evoluzione umana, l'uomo è più vecchio di 700.000 anni, e per il calcio Coppa Italia in campo a Roma all'andata della semifinale Lazio-Napoli. Quindi dal viaggio del Presidente del Consiglio tra Ucraina e Russia. Renzi ha prima incontrato a Kiev il Presidente ucraino Poroshenko, al centro del colloquio gli accordi di Minsk per rendere duratura la tregua che lì si era firmata dopo il conflitto con i separatisti filorussi nell'est del paese, e ha ribadito un concetto che poi quella la posizione ufficiale dell'Unione Europea: tutti noi vogliamo il rispetto e l'indipendenza della sovranità dell'Ucraina, deve tornare la pace. Successivamente si è spostato a Mosca, dove domani incontrerà il Presidente Putin. Ne parliamo con Gerardo Pelosi, inviato a Mosca. Ciao Gerardo, del Sole 24 Ore naturalmente. Gerardo, quindi questo è il concetto che ha espresso per quanto riguarda in sintesi i rapporti con l'Ucraina e la posizione europea nei confronti di questo conflitto che dura da almeno 10 mesi. Sì, assolutamente, forse con un leggero ritardo anche l'Italia mette, diciamo, entra in questo negoziato, un negoziato che doveva essere affidato all'Europa, che in realtà è stato quasi tutto in mano a Hollande, al presidente francese Hollande e alla cancelliera Merkel, e l'Italia recupera un poco il suo spazio tradizionale di rapporto storico con la Russia, ma anche di paese che ha, come dire, una certa equidistanza e un equilibrio in quest'area del mondo. Con Petro Poroshenko, il presidente ucraino, Renzi ha cercato, ovviamente, ha concordato sul rispetto degli accordi di Minsk. La situazione sul terreno è ancora molto instabile, mancano all'appello molti soldati ucraini, ci sono ancora anche oggi un morto proprio a Kiev, e quindi la situazione non è delle migliori, ma Renzi ha invitato Poroshenko anche a rispettare un rispetto da parte ucraina di quella parte di autonomia federalista, per fare dell'Ucraina una vera una vera Repubblica federale che conceda una parte di autonomia ai filorossi. E da parte sua Poroshenko ha chiesto l'aiuto a Renzi perché con Mosca peroli la causa della Top Gun, la pilota ucraina detenuta, Nadia Savchenko, detenuta nelle prigioni di Mosca e da oltre 2 mesi in sciopero della fame e che rischia di morire. Da poche ore Renzi è qui a Mosca, adesso in ambasciata per una colazione con una cena con l'ambasciatore Ragaglini. Domani mattina il primo impegno sul ponte, sulla Moscova, davanti al Cremlino, dove è stato ucciso il dissidente liberale Nemtsov, lascerà una rosa, poi l'incontro con il premier Medvedev e la colazione di lavoro con Putin. All'ordine del giorno ovviamente la situazione, la crisi ucraina, ma anche la lotta al terrorismo e quindi al ruolo che la Russia potrà avere nella lotta all'ISIS in Iraq e in Siria, e soprattutto un possibile voto favorevole della Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Libia. Grazie Gerardo Pelosi, poi capiremo, domani ci risentiremo, ci aggiorniamo anche sulla giornata russa di Renzi. Intanto, per restare in Russia, dopo i funerali ieri di Boris Nemtsov, che citava anche Gerardo Pelosi, l'oppositore di Vladimir Putin ucciso venerdì scorso nel centro di Mosca, proseguono le indagini e di questo poi ci occuperemo dopo, perché pare che ci siano i primi 2 sospetti. Adesso andiamo sulla politica, la politica italiana. C'è stato uno strappo nella maggioranza sulla prescrizione e slitta in Senato il disegno di legge anticorruzione. Provvedimenti in 2 diversi rami del Parlamento che però sanciscono la rottura della maggioranza sulla giustizia e caos al Senato sulla corruzione e alla Camera sulla prescrizione. Il governo allunga i tempi della metà dei termini per i reati di corruzione. Il nuovo centrodestra non ci sta, contraria anche Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle invece vota no, perché avrebbe voluto un aumento per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione. Il ministro della giustizia Andrea Orlando assicura che il provvedimento è solo all'inizio e che si troverà l'accordo, ma i 5 Stelle parlano di caos. Alfonso Bonafede. A me capire se la maggioranza è spaccata o meno me ne frega veramente poco, perché questo fa parte dei giochi di potere interni alla maggioranza. Quello che mi interessa sapere è che la maggioranza, e oggi lo sappiamo, è incapace di lavorare seriamente sui temi dell'anticorruzione in generale e in questo caso della prescrizione. Slitta invece di 2 settimane l'approdo nell'aula di Palazzo Madama del disegno di legge sulla corruzione, dove è giallo sul testo riguardo al reato di falso in bilancio, fermo da 2 giorni al Ministero per i rapporti con il Parlamento, ma atteso dai parlamentari. Anche qui i grillini insorgono per un emendamento che viene prima presentato alla stampa e poi ai senatori. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto la paventata, da tempo annunciata nelle ultime settimane almeno, rottura nella Lega in Veneto sembra a un passo. Nel Consiglio regionale è stato costituito un nuovo gruppo che si chiamerà Impegno Veneto. A farne parte il presidente della Lega Veneta, che è Luca Baggio, l'altro leghista Matteo Toscano e un consigliere del gruppo misto Francesco Piccolo. La deriva destra di Matteo Salvini non mi piace, sono con Flavio Tosi, così ha spiegato Baggio. Tosi intanto sta meditando sul da farsi, ne parlavamo anche nei giorni scorsi. Immigrazione, ancora morti purtroppo nel canale di Sicilia, i corpi di 10 migranti sono stati recuperati in mare dopo il naufragio di un gommone. In 7 operazioni nelle ultime ore sono stati salvati 941 persone e dopo quest'ultima tragedia anche la Commissione europea ammette che non si può perdere tempo. Non più Mare Nostrum, ma Europa Nostra. Siamo tutti nella stessa situazione, non c'è più tempo da perdere. La Commissione europea ammette l'urgenza di una nuova politica sull'immigrazione e decide così di anticipare la presentazione dell'agenda europea sulle migrazioni da metà luglio a metà maggio. L'ultima strage ha infatti acuito l'urgenza, dice il vicepresidente Timmermans, secondo il quale occorre un atteggiamento aggressivo nella lotta ai trafficanti di esseri umani responsabili di tragedie, il che significa anche una cooperazione con i dittatori per gestire il fenomeno. Una presa di posizione emersa oggi durante la prima discussione in vista dell'agenda europea sulla migrazione. Nell'occasione è stato presentato un documento con quattro principali settori di intervento: un forte sistema comune per l'asilo, una nuova politica europea sull'immigrazione regolare, lotta più decisa a quella irregolare e alla tratta di esseri umani e una maggiore protezione delle frontiere esterne. Frontex non è la guardia delle frontiere UE, se vogliamo un sistema efficace dobbiamo crearlo, ha detto il commissario all'immigrazione Avramopoulos, secondo il quale è finito il tempo dello scaricabarile e la solidarietà non può rimanere uno slogan. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. E oggi è stato ricordato a 10 anni dalla sua morte, 10° anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, il dirigente del SISMI che perse la vita a Baghdad, vi ricordate, nelle fasi successive all'operazione di intelligence che portò alla liberazione della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Erano presenti il presidente del Senato Grasso e i vertici dei servizi segreti. Per la cronaca, un nuovo femminicidio che era apparso all'inizio come una morte naturale, svolta per la morte di Marinella Bertozzi a Fucecchio in Toscana. Per anni ha subito in silenzio le botte e le urla del marito, non si è mai ribellata a quei soprusi, nemmeno la sera del 30 ottobre scorso è riuscita a fermare la mano di Giacomo Benvenuti che secondo la procura l'ha massacrata selvaggiamente con pugni e calci. E per la musica, vi dicevo, sono passati 3 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, avvenuta il 2 marzo del 2012, si moltiplicano le iniziative per ricordarlo. Tra queste è uscito nei giorni scorsi nelle sale cinematografiche il documentario di Mario Sesti Senza Lucio e poi tra le varie cose l'apertura della sua casa a Bologna in via D'Azeglio 15 che si è aperta al pubblico dall'altro ieri, dal 2 marzo sino oggi 4 marzo, che tra l'altro sarebbe stato il suo 72esimo compleanno. All'inaugurazione c'erano anche vari amici, Renzo Arbore, Gianni Morandi e Walter Vetroni. I biglietti, pensate, sono stati esauriti in 3 ore. Ne parliamo con Donatella Grazia che è presidente della Fondazione Lucio Dalla e cugina di Lucio. Buonasera Donatella Grazia. Buonasera. Non si è dimenticato, come raramente succede con gli artisti del suo livello, difficile che dopo 3 anni sia ancora così vivo il ricordo, la voglia di ricordarlo, di essere insieme, addirittura questa iniziativa della casa aperta al pubblico. È stata un'iniziativa che ha riscontrato un successo enorme, ma grazie a tutti gli amici di Lucio che hanno deciso di partecipare con grande trasporto, con grande commozione, devo dire anche con grande allegria, quindi è stata una cosa molto molto riuscita, molto emozionante, tantissimo grazie a loro. Donatella Grazia, quindi le iniziative si fermano qui in occasione oggi del 4 marzo 1943, la data della sua nascita, ci sarà qualcosa prossimamente anche a parte questo documentario che è uscito, credo sia ancora nelle sale cinematografiche? Sì, il documentario credo sia uscito oggi o esce domani, quello non coinvolge la fondazione, comunque è un documentario per Lucio, quindi va benissimo. Noi come fondazione intanto completiamo questi 3 giorni che sono stati 3 giorni eccezionali. Stasera abbiamo un'ultima attività che è un collegamento, una trasmissione in diretta con Web Notte. Dopodiché, naturalmente da domani cominciamo a pensare, continuiamo più che altro a pensare a quello che sarà l'attività futura. Si è fatto molto parlare in questi giorni della Casa Museo, almeno questa è una domanda che mi hanno rivolto un po' tutti in questi giorni. La Casa Museo è un progetto al quale la famiglia di Lucio e quindi anche la fondazione hanno cominciato a pensare fin da subito, quindi noi vorremmo lavorarci sopra. In questo senso abbiamo avuto sia l'appoggio dell'amministrazione comunale sia l'appoggio e la vicinanza con grandissimo affetto del ministro Franceschini. Abbiamo cominciato già a collaborare con la sovrintendenza. Quello che vorremmo fare, e questi 3 giorni ce l'hanno assolutamente confermato, è un progetto per il futuro che riguarda la Casa di Lucio, ma riguarda la Casa di Lucio con modalità non convenzionali. Quindi verrebbe quasi la voglia di pensare a questa casa come a un luogo nel quale periodicamente fare degli incontri, degli eventi, delle performance, insomma. Però non voglio essere troppo precipitosa nelle valutazioni sull'onda di questi 3 giorni. Certo, devo però dire che è stato un modo, credo, bellissimo di stare insieme e con Lucio, perché Lucio è vissuto da tutti come una presenza costante, cioè nessuno pensa a lui come a qualcuno che non ci più. E non può che far piacere. Grazie Donatella, grazie. E adesso con il calcio invece c'è la Coppa Italia e c'è Dario Ricci che ci dice cosa stanno combinando Lazio-Napoli in campo più o meno da 20 minuti? No, mezz'ora? Anche mezz'ora, ecco. Direi Roberto. Sì. Tra l'altro piove a dirotto all'Olimpico, come non di rado accaduto quest'anno. Siamo ancora sullo 0-0, ma la partita è viva, come si dice, perché al nono palo per la Lazio, colpo di testa clamoroso di Klose, respinto dal Montante. Al 26esimo, bell'assist per Higuain, che praticamente da 2 metri apporta pressoché completamente a disposizione, tocca sì di destro ma troppo debole e il pallone finisce tra le braccia di Berisha. Quindi 0-0 al 32esimo di gioco, però insomma, questa andata della semifinale di Coppa Italia si fa stuzzicante. E vedremo poi come si farà in seguito, grazie Dario Ricci, se è così stuzzicante, e sentiamo anche gli aggiornamenti, se sono stuzzicanti o no per chi viaggia. I vostri messaggi intanto arrivano. Renzo da Imperia al 349-238-6666 su questa apertura di Grillo al centro-sinistra, dice: Grillo e Casaleggio cominciano a comportarsi oggi come dovevano fare all'inizio, forse troppo tardi. Poi Clotilde dice: era ora. E così diversi messaggi, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Note, ma li leggiamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme. Volevo, prima di riepilogare le notizie, ancora leggere qualche vostro messaggio, per esempio sulla pagina Facebook, a proposito dei vostri giudizi su questa apertura tra Grillo e centrosinistra. Adesso vediamo quanto effettiva, perché già vedevo che Guerini, vice segretario del PD, diceva: Grillo è tornato sul tetto, quindi qualcos'altro deve essere successo. Andrea scrive: sono riforme importanti se fatte bene, non importa chi le abbia proposte. Ludovica scrive: dobbiamo andare oltre le vecchie distinzioni, ormai in politica c'è chi fa e chi parla, e se le riforme sono ben fatte, al di là del colore politico di chi le presenta, penso che i cittadini vadano bene. Ma adesso vi riepilogo le notizie. La maggioranza che si spacca sulla prescrizione, Area Popolare dice che non ci sta così come è stato riformulato questo provvedimento, e intanto Renzi rassicura sui precari a scuola, ma dice bisogna fare presto. Ancora morti nel canale di Sicilia, 10 le vittime, e l'Unione Europea accelera sull'agenda. Intanto Salvini critica Alfano e il Presidente del Consiglio dice hanno le mani sporche di sangue. Difficili prove di dialogo tra Grillo e PD, la Lega intanto in Veneto va verso la spaccatura. Renzi nel suo viaggio a Kiev a Mosca chiede il rispetto degli accordi e della sovranità dell'Ucraina. E poi la Grecia che prepara un piano di riforme in 6 punti. E ancora a Pompei, sequestrati per 6 milioni all'ex commissario degli scavi, 6 milioni di sequestro, ecco, sui lavori fatti. E poi in India vietato il documentario dello stupro di Nirbhaya, vi ricordate la ragazza che era stata così selvaggiamente violentata in un autobus, che è diventata un simbolo per le donne in India e non solo. C'è forse un aggiornamento per quanto riguarda la partita, mi pare che siano 0-1. 0-1 Lazio, 0 Napoli 1, no, il contrario, Napoli 1 e Roma. Ah, c'è Dario Ricci, Dario, allora dillo, fai, lancia un segno, batti un colpo. Eccomi, sì. Roberto, ti avevo promesso una partita scoppiettante. Stuzzicante. Lazio e Napoli hanno subito mantenuto la promessa, perché al 35esimo di gioco la Lazio è in vantaggio per 1-0 sul Napoli, il gol al 32esimo di Miro Klose, lo stesso Klose che aveva colpito il palo al 9 minuto, questa volta bell'assist in profondità di Felipe Anderson e Klose, che con un destro di precisione e in diagonale ha battuto in uscita Andukar. Quindi al 35esimo di gioco, sotto il diluvio dell'Olimpico, Lazio 1, Napoli 0. Grazie Dario Ricci. Ora invece torniamo a parlare del viaggio del Presidente del Consiglio Renzi tra Ucraina e Russia. Ne abbiamo parlato prima con l'inviato del Sole 24 Ore. A Kiev ha chiesto, incontrando il Presidente ucraino Poroshenko, che siano rispettati gli accordi perché ci sia la pace nell'est del paese dopo 10 mesi di conflitto, 6.000 morti. Successivamente è arrivato a Mosca, dove domani incontrerà il Presidente russo Putin, e tra l'altro deporrà dei fiori nel luogo in cui è stato ucciso l'oppositore Boris Nemtsov. Pare che sulla morte di Nemtsov. Intanto c'erano state già ieri delle anticipazioni, 3 auto che l'avrebbero seguito, quindi un agguato molto ben studiato. C'erano dei sospetti sulla sua fidanzata 23enne, una modella bellissima ucraina che è tornata subito in Ucraina, anche se oggi si parla di 2 sospetti che sarebbero stati fermati, 2 caucasici. Sarebbe interessante anche capire domani, rispetto a questa notizia, come si comporterà Renzi con Putin, perché Putin dice è una vergogna, bisogna impedire questi omicidi che tendono a screditarmi, quindi lui dice sono stati fatti apposta per screditarmi, per gettare fango su di me, mentre le persone vicino al politico assassinato ritengono che c'entri proprio con gli omicidi politici e che quindi in qualche modo sia stata almeno fomentata un'atmosfera di odio nei confronti degli oppositori. Ne parliamo con l'ex ambasciatore a Mosca Giancarlo Aragona e presidente dell'ISPI. Buonasera ambasciatore. Buonasera. Quindi adesso ci sono queste poche novità per il momento, comunque i servizi segreti russi dicono che ci sono 2 sospetti, ha sentito però della diatriba tra Putin che dice vogliono screditarmi e invece le persone vicino a Nemtsov che è stato ucciso che dicono è l'odio fomentato proprio dal governo che ha portato a questo omicidio. Beh, queste letture diametralmente opposte di quanto è avvenuto non possono sorprendere. Quindi bisogna adesso attendere i risultati di una investigazione che per questo deve essere estremamente convincente ed estremamente chiara. Adesso la identificazione dei possibili sospettati di essere gli esecutori materiali sarebbe certo un passo avanti, ma tutt'altro che sufficiente, perché gli esecutori materiali è relativamente facile trovarli, poi bisognerà risalire ai mandanti, bisognerà capire dove e come è maturato questo drammatico assassinio. E quindi aspettiamo i risultati e aspettiamo soprattutto i risultati che ci convincano. Ma Renzi, secondo lei che posizione dovrebbe avere nei confronti di Putin? Chiaramente al momento non può dire è colpa tua, sei stato ucciso o meno. Domani abbiamo visto che andrà a deporre una rosa sulla tomba di Nemtsov. Guardi, è un gesto significativo già questo, insomma. Leggendo non ha a che fare con l'assassinio di Nemtsov, ma prepari un po' il tono della visita, perché a Kiev il Presidente del Consiglio ha detto delle cose assolutamente in sintonia con la posizione dell'Unione Europea, cioè il rispetto della sovranità ucraina e il rispetto degli accordi di Minsk. Quindi la posizione dell'Italia è stata riaffermata oggi molto chiaramente. È chiaro che l'appello a rispettare gli accordi di Minsk si indirizza anche agli ucraini, non soltanto ai separatisti. Però insomma ribadire che la sovranità dell'Ucraina va rispettata è un messaggio molto chiaro, molto coerente con la posizione dell'Europa. Quanto poi domani all'incontro con Putin sulla vicenda Nemtsov, credo che Renzi non potrà altro che chiedere che sia fatta chiarezza e che si arrivi all'accertamento di una verità convincente. Questo è chiaro, che penso che sarà piuttosto Putin che cercherà di presentare la sua interpretazione. Ma insomma quello che conta e quello che certamente il Presidente del Consiglio farà è dire bisogna far presto e bisogna arrivare a una soluzione che sia convincente. E il fatto che vada a portare dei fiori sul luogo dove è stato assassinato Nemtsov credo che sia un gesto molto apprezzabile, perché comunque Nemtsov ha rappresentato un riferimento per quell'opinione russa più liberale e più occidentalizzante. Quindi è bene che gli venga reso omaggio. Questa corrente di opinione in Russia, sappiamo bene, non è molto forte sul piano elettorale, sul piano del peso politico, però c'è e chiaramente Nemtsov ha rappresentato un personaggio molto importante. E fede e quindi giusto, è comunque morto in circostanze tragiche. È chiaro che nel momento in cui poi si capirà cosa è successo e allora anche il gesto di omaggio alla sua memoria avrà un significato diverso, ma intanto andava fatto. Certo, e speriamo che davvero si arrivi a capire la verità, per quanto difficile sia. La ringrazio intanto, ambasciatore Giancarlo Aragona, grazie. Grazie a voi, buona serata. Ora ci spostiamo sulle questioni più interne, parliamo di giustizia, perché sul tema della prescrizione oggi si è consumata una rottura nella maggioranza. La maggioranza si è spaccata in commissione giustizia alla Camera. È stata approvata la riformulazione dell'articolo 1 del testo di riforma della prescrizione, che prevede l'allungamento dei termini per i reati di corruzione. C'è stato il voto contrario di Area Popolare, oltre a quello di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Area Popolare, che è il gruppo parlamentare che fa parte della maggioranza, in cui sono confluiti il nuovo centrodestra, cioè NCD, l'Unione di Centro, entro alcuni indipendenti. Area Popolare si è schierata contro questo nuovo testo riformulato, che allunga di molto, di fatto raddoppiandoli, i termini per la prescrizione. Allora saluto Dorina Bianchi, onorevole vicepresidente dei deputati del nuovo centrodestra. Buonasera onorevole Bianchi. Buonasera a tutti. Mi dice come mai avete votato contro questo allungamento della prescrizione? Guardi, io vorrei dire che noi tutti sentiamo l'esigenza di inasprire le pene sulla corruzione, tant'è vero che al Senato si sta discutendo appunto l'aumento della pena, che va da 4 a 8 anni a 6-10 anni, e ieri c'era stato un vertice anche di maggioranza in cui si era deciso appunto l'intervento sull'articolo 161, cioè sulla prescrizione, e si era deciso di non superare una quota prevista dalla legge aumentata di un quarto. Ora, naturalmente in commissione si è verificata appunto la presenza di questo emendamento che ha aumentato di un mezzo, poi vi dirò i numeri così forse è più facile capire la quantità della pena, e su questo noi non eravamo d'accordo, anche perché gli accordi nella maggioranza erano altri, cioè noi siamo passati da 7 anni, che era la prescrizione originaria, dopo la legge Severino nel 2012, a 10 anni. Ora quindi abbiamo 10 anni e noi c'era un accordo per aumentarla di un quarto, cioè di 2 anni. Invece in questa maniera si è aumentata di 5, più i 3 anni di sospensione che è prevista dalla legge, 2 dopo il primo grado e 1 dopo la condanna in appello. Quindi noi siamo di fronte oggi a 10 anni più 5 più 3, cioè sono 18 anni, e noi crediamo oggettivamente che la giustizia debba dare una risposta breve ed efficace, perché l'aumento dei tempi di prescrizione non è vero che diminuiscono i tempi dei processi, secondo noi li aumentano e soprattutto vanno a nascondere quelle che sono le disfunzioni della giustizia. E tra l'altro noi crediamo che nel nostro ordinamento ci sia sempre da riconoscere una presunzione di innocenza, e crediamo che tenere appeso a giudizio una persona per 18 anni oggettivamente non sia giusto. Ecco perché oggi abbiamo votato contro questo emendamento, perché crediamo che 18 anni siano veramente tanti, anche per un reato grave che noi riconosciamo come grave, come la corruzione. Noi crediamo invece che chi è colpevole debba essere condannato velocemente, la giustizia debba dare una risposta che sia il più breve, efficace e efficiente possibile. Comunque vedevo che il ministro della giustizia Orlando, credo nella puntata registrata per Porta a Porta, ha detto: discuteremo comunque dell'esame del provvedimento perché solo all'inizio, ma va salvaguardata una specificità dei termini di prescrizione per i reati di corruzione. Insomma, comunque per voi il problema è che sono troppi 18 anni e si rischia di andare per le lunghe. Era questo insomma il focus del problema. Non c'è dubbio, tanto è vero che noi eravamo d'accordo tra l'altro per un aumento della pena sui reati di corruzione che in automatico aumenta la prescrizione. Quindi veramente io credo che noi dobbiamo dare una pena che sia una pena certa a chi corrompe, ma nello stesso tempo dobbiamo garantire una giustizia che sia una giustizia veloce ed efficace. Chiara, chiarissima. Ringrazio onorevole Dorina Bianchi. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Che so che era in commissione, quindi ancora stavano ragionando. Adesso ci fermiamo. Vedo vari altri vostri messaggi, perché poi parleremo dell'apertura di Grillo al centro-sinistra e viceversa. C'è Cristiano che dice: positivo scoprire che Grillo depone i suoi arnesi da astioso qualunquista, le furie, gli strepiti da berciatore fine a se stesso e si dispone a sedersi a un tavolo per misurarsi sui temi così cogenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo ancora diversi, Roberto Giordano sempre con voi, vedo diversi messaggi vostri favorevoli a questa apertura di Grillo al centro-sinistra e viceversa, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche se qualcuno dice in realtà è molto tardi. Stefano poi Fioretti fa un discorso più articolato, ma magari dopo. Prima vi riepilogo le notizie della giornata più importanti, se avete acceso la radio solo colpevolmente in questo momento. Giustizia, la maggioranza si spacca sulla prescrizione, ne abbiamo appena parlato con l'onorevole Dorina Bianchi del Nuovo Centrodestra, è slitta di 2 settimane l'approdo in Senato del disegno di legge anticorruzione. Il conflitto nella Lega Nord, in Veneto il partito va verso la rottura, il viaggio a est di Renzi, il Presidente del Consiglio va a Kiev, a Mosca e chiede rispetto per gli accordi e la sovranità dell'Ucraina. Immigrazione, altri 10 migranti morti nel canale di Sicilia, scoperta sull'evoluzione umana, siamo più vecchi di 700.000 anni rispetto al previsto e per il calcio Coppa Italia Lazio 1 Napoli 0. E saluto intanto l'onorevole Filippo Taddei, che in realtà è responsabile per l'economia e il lavoro del PD, ma è onorevole lo stesso per la sua competenza e la sua posizione. Taddei, buonasera. La ringrazio, buonasera, non penso di meritare tanto. Buonasera, sicuramente almeno per la simpatia. Devo dire che ci sono vari messaggi che magari troverò il tempo di leggere dopo, sulle aperture del Movimento 5 Stelle al Partito Democratico. Ieri abbiamo avuto qui Effetto Notte Roberto Fico, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Vigilanza sulla RAI, la Commissione parlamentare, che aveva detto, così come in conferenza stampa alla Camera, siamo aperti, abbiamo una nostra idea della riforma della RAI e apriamo al 100% al dialogo col PD e alle altre forze politiche che volessero condividere un po' il nostro progetto, il nostro piano. Allora direi, e oggi poi c'è stata la svolta di Grillo, avete visto nell'intervista al Corriere della Sera che dice una nuova fase per i 5 Stelle che è iniziata dall'incontro che ha avuto Grillo e Casaleggio con il presidente Mattarella, il nuovo presidente, e poi ha detto c'è una possibile apertura al dialogo con PD compreso su RAI e reddito di cittadinanza, sulla quale ha insistito particolarmente Di Maio. Ma sentiamo che cosa ha detto ieri Fico su quella che è la loro proposta di riforma della governance della RAI. Con questo disegno di legge che abbiamo presentato oggi svoltiamo, cambiamo epoca, entriamo in un altro mondo, nel futuro. I consiglieri di amministrazione RAI non saranno più scelti per appartenenza politica, ma per merito, per indipendenza e per onorabilità. Ho letto anche Fico con un sorteggio. Possibile con un sorteggio? Sì, è possibile, però detto chiaramente sembra una cosa assurda, invece una cosa molto, molto centrata, perché ci sarà un avviso pubblico dove tutti potranno mandare curriculum vitae, i curricula quindi, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è l'Agcom, che è un'autorità indipendente che oggi già abbiamo, e con requisiti oggettivi, quindi senza discrezionalità, si entrerà in una rosa di candidati che saranno i migliori, una rosa che saranno i candidati poi al Consiglio di Amministrazione. Questo è la proposta di riforma della RAI per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di ieri, di Fico, sempre Fico, al quale ho chiesto, quindi c'è il dialogo, c'è l'apertura con il PD, sentiamo cosa ha risposto. No, in tutte le commissioni e nel Parlamento per tutti i provvedimenti abbiamo sempre dialogato. Adesso la riforma della RAI è una materia propria del Parlamento. Parlamento, e quindi cerchiamo di lavorare con tutte le forze politiche e apriamo anche al PD sul dialogo e su questa proposta di legge. Però il punto deve essere chiaro, che nessuno deve barare, l'obiettivo deve essere trasparente, ovvero la RAI finisce di essere appannaggio governo e del partito e dei partiti politici. Con questi due obiettivi allora poi possiamo dialogare, perché la mira è chiara, allora le forze in Parlamento possono dialogare con una tranquillità maggiore. Quindi Filippo Taddei, ha sentito della proposta sulla riforma della RAI, qual è la loro idea anche di dialogo? Mi sembra che oggi il capogruppo PD alla Camera, Roberto Speranza, sia stato molto favorevole, dice se è una vera inversione di linea, penso che il PD debba essere pronto a confrontarsi nel merito delle questioni senza pregiudizi. Ancora più aperto Vendola di SEL, che ne pensate quindi di questa possibile, Vendola parla addirittura di alleanza, voi che posizione avete, Taddei? Ma che questo è che le proposte politiche si valutano sul serio, e che le aperture non si misurano sulla base delle interviste sui giornali, sulle dichiarazioni. Adesso non bisogna dimenticare come funziona poi la politica, come è funzionata recentemente. È il Partito Democratico che ha parlato per primo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, di riforma della RAI. Allora il Movimento 5 Stelle fa questa operazione di comunicazione politica, per cui dicono: noi abbiamo una nostra proposta, siamo aperti al dialogo, ma in realtà è un dialogo che è già stato inaugurato dalla decisione, dall'impronta, dalla determinazione del Presidente del Consiglio e quindi del Segretario del Partito Democratico a fare in modo che si riformasse la RAI. E stessa cosa avviene sul reddito di cittadinanza che lei citava all'inizio. Qui è un po' un dibattito a parti invertiti, cioè noi abbiamo un governo che si impegna a fare alcuni cambiamenti e forze politiche e opposizioni che dicono: noi abbiamo la nostra proposta, siamo disposti a dialogare. E dico: beh, questa è una novità, ma insomma non perdiamo memoria storica di come funzionano i processi. I processi sono che qui abbiamo una proposta di determinazione del governo e a cui rispondono forze di opposizione dicendo che anche loro hanno una proposta e che sono disposte a dialogare. Dico sì, l'unità qui è che il Movimento 5 Stelle dichiara di essere disposto a dialogare, quando noi sappiamo che nell'ultimo anno e rotto il Movimento 5 Stelle è tutto fatto fuorché dialogare, c'è sempre stato un dialogo di facciata in cui l'apertura consisteva nel dire che avevano una proposta e che chi non era d'accordo con la loro proposta in realtà non voleva dialogare. Quindi siete diffidenti, Taddei, mi fa capire, in realtà, siete un po' vigili su questa apertura. Sì, ma le confesso, sono un po' diffidente, perché prendiamo il caso del reddito di cittadinanza. Ecco, no? Questo ora, è importante, il reddito di cittadinanza. Per esempio, le dico, io guardi, sono personalmente d'accordo, lo trovo una mancanza molto importante del nostro stato sociale. Penso che il fatto che manchi uno strumento universale di lotta alla povertà sia una grave carenza del nostro stato sociale. E però vede, cioè, poi se fai politica hai una responsabilità di governo che è più importante di questo, che non è solamente l'affermazione di un principio per cui non c'è bisogno della politica, ma anche la realizzazione di quel principio, cioè che c'è una proposta che tenga conto di come effettivamente tu puoi fare, puoi realizzare questo reddito di cittadinanza. Quindi alla fine il reddito di cittadinanza è l'idea di sostegno ai poveri, sostegno a chi scivola, a chi non ha nulla. Quindi un assegno mensile che sia almeno minimo per... Per poter essere appunto cittadini e per partecipare attivamente. Bene, ma non è su quella proposta che ci si misura sulla capacità di offrire coperture credibili, cioè di rendere quella proposta fattibile. E quindi questo, dove sono le risorse? Bisogna essere sicuri che ci siano le risorse, questo esatto, lei dice. E qui secondo me arriva veramente la casca l'asino della credibilità di questo atteggiamento, perché andiamo un po' a vedere, non è che i 5 Stelle dicano non ci sono coperture, cominciano ad adottare una serie di coperture un po' particolari. Primo, la patrimoniale sui grandi patrimoni, e sa, io qui le dico, finanziare uno strumento ordinario, cioè che esiste ogni anno, perché se fai il reddito di cittadinanza non è che lo fai un anno, lo fai tutti gli anni, con un finanziamento straordinario, cioè una patrimoniale, io già capisce. Sono un po' scettico sull'impostazione, perché mi dico: vabbè, il primo anno lo paghiamo con la patrimoniale, facciamo finta, ovviamente è una follia, ma il secondo anno che facciamo, come lo finanziamo? Allora a questo punto c'è una super aggiunta, che è: no, non facciamo solo la patrimoniale, facciamo anche un grande progetto, cito l'intervista di Grillo, di riduzione della spesa, in particolare tagliando 20 miliardi di soldi sulla formazione. E qui si capisce, io comincio a passare dallo scettico un po' al preoccupato, perché 20 miliardi di informazioni, cioè tutta l'impostazione della politica del governo, che era poi scritta in realtà molto moderna, di dire al lavoratore che perde il lavoro, noi abbiamo il dovere non solamente di dargli il pesce, cioè la segna di disoccupazione, ma anche di insegnargli a pescare, cioè aiutarlo a ricollocarsi, a prendere una nuova mansione. Tutto questo adesso si scopre che si può farlo senza risorse, perché possiamo tranquillamente tagliare quei 20 miliardi di finanziamenti e utilizzare quei 20 miliardi magicamente per pagare il reddito di cittadinanza. Mi sembra un po' bottata, adesso uso un eufemismo qui. Sì. Purtroppo la politica del governo è una roba più seria, insomma, ha bisogno di meno tattica e più responsabilità. Restiamo in attesa, Filippo Taddei, allora di quello che verrà, se ci sono le coperture, se c'è almeno questo dialogo. Sì, però posso dire una cosa, giusto? Per dare il senso di questo. Taddei, la perdo. Pronto? Era in treno Filippo Taddei, quindi la conclusione comunque c'è stata, poi lo richiamiamo, lo ringraziamo. Grazie Filippo Taddei, del responsabile per l'economia del PD. Adesso direi sì, che prima dei vostri messaggi ancora che arrivano alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, ringrazio intanto Maurizio Volpe da Udine, Francesca da Verona, aggiorniamo chi viaggia. Lavoro in questa pasticceria da un mese e sono quello giusto, quello di cui aveva bisogno il titolare. Veloce, pratico, versatile. Il cliente non ha contanti? Tranquillo, può usare la carta. Preferisce il bancomat? Nessun problema. Chi sono? Il POS sicuro di Vodafone e Setefi. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. C'è Carla che scrive al 349-238-6666, finalmente un po' di buonsenso, finalmente dimostrano di agire il Movimento 5 Stelle per l'Italia, di comprendere l'importanza di lavorare su obiettivi utili per il Paese. Adesso le notizie più importanti, ve le ricordo, sono il viaggio di Renzi tra Ucraina e Russia, domani sarà a Mosca, parlerà con Putin e porterà una rosa sul luogo dove è stato ucciso il dissidente russo Nemtsov, e poi la maggioranza che si spacca sulla prescrizione, Area Popolare vota contro, anche se il ministro Orlando dice ne discuteremo, l'abbiamo avuto Dorina Bianchi del Nuovo Centrodestra con Effetto Notte poco fa. Ancora morti purtroppo nel canale di Sicilia, e per quanto riguarda la Coppa Italia siamo sempre Lazio 1 Napoli 0. Europa 24 notte. Nello spazio europeo parliamo di parità di lavoro, stipendi diversi tra uomini e donne. 8 marzo alle porte, tempo di bilanci, quindi di riflessioni sulla parità di genere. Nel lavoro, ad esempio, uomo e donna hanno a volte la stessa opportunità, ma stipendi, aspettative di carriere diverse. Accade in tutta l'Europa, dove i primi guadagnano in media gli uomini il 16% in più all'ora e ben il 31% in più all'anno. Si tratta del cosiddetto pay gap. Si chiama pay gap, c'è in tutta Europa il divario di retribuzioni tra uomo e donna, con queste ultime che a parità di lavoro e di capacità vengono pagate mediamente meno, il 16% all'ora, il 31% all'anno. Lo scarto maggiore in Estonia, Austria e Germania, il minore in Slovenia, Polonia e sorprendentemente in Italia, dove il divario si è ridotto al 6%, posizionando il nostro paese tra quelli più virtuosi. A certificare la questione è la stessa Commissione europea, secondo cui a parità di qualifiche tra uomo e donna, o addirittura quando le qualifiche del gentil sesso sono migliori, le competenze spesso non ricevono lo stesso riconoscimento e la carriera è più lenta. Cristina Molinari è la presidente del comitato Pari o Dispare, comitato che si occupa del raggiungimento della parità tra uomini e donne attraverso il lavoro. Direi che nella mia esperienza le differenze salariali vanno capite e vanno capite su due fronti diversi. Il primo è quello professionale, cioè le donne che hanno una professione. Queste competono con i colleghi maschi e devono vincere una ritrosia, diciamo, a scegliere una professionista femmina. Quindi mediamente hanno dei rate più bassi e competono quindi sul prezzo. Salvo rare eccezioni, che sono quelle che si sono straaffermate, quindi le loro parcelle sono più basse. La seconda invece filone è quello aziendale, no? Allora, se lei vede le aziende che hanno investito nella tematica dell'equiparazione, quindi che si sono poste il problema di come bilanciare la presenza di uomini e donne in tutti i livelli di carriera, e quelle che lo fanno seriamente sono ancora abbastanza una minoranza, no? Allora, la prima cosa che fanno è raccolgono i dati, però i numeri vanno anche capiti. Le faccio un esempio. La differenza salariale se la studia nella piramide aziendale, quindi da primi livelli fino a livelli manageriali, lei può trovare dei dati sorprendenti. Per esempio, nei livelli intermedi lei scoprirà che spesso le donne sono pagate di più dei maschi. E perché? Perché stanno nel ruolo di più, perché non vengono promosse. Quindi bisogna stare molto attenti per leggerli correttamente, nel senso che se io ho dei quadri o dei livelli appena sotto la dirigenza, è facile che ci sia un buon numero di donne che vengono pagate più dei maschi, semplicemente perché non sono entrate nelle promozioni. Lei trova la divaricazione nelle retribuzioni più facilmente al salire della carriera. E intanto, poiché le donne in Europa guadagnano meno e accumulano nel corso della loro vita meno ore di lavoro, anche le loro pensioni sono ridotte. Di conseguenza, tra gli anziani vi sono più donne in stato di povertà rispetto agli uomini. Eppure, garantire la parità di retribuzione converrebbe a tutti. Secondo lo studio European Added Value Assessment, un punto percentuale di diminuzione del pay gap aumenterebbe la crescita economica dello 0,1% a livello europeo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora velocissimamente saluto Telmo Pievani, evoluzionista e docente all'Università di Padova, Dipartimento di Biologia. Buonasera Pievani. Buonasera. Questa scoperta pubblicata sulle riviste Science and Nature, quindi le due più prestigiose riviste scientifiche, di due studi, uno dell'Università di Arizona e l'altro del Max Planck di Lipsia, che dicono che noi siamo più vecchi di 700.000 anni rispetto a quanto si pensasse. È importante, è vero, in base a dei fossili l'hanno scoperto. Sì, è una scoperta molto importante, è stata trovata una mandibola appartenente a un nostro antenato che ha 2.8 milioni di anni e quindi è di 500.000 di anni più vecchia dei ritrovamenti più antichi mai trovati prima e quindi riscrive un pochino l'inizio della diversificazione, dell'evoluzione della nostra storia, della storia del nostro genere. È possibile che se ne scopra un altro più in là che ci dica che siamo più vecchi di chissà quanti altri milioni di anni possibilmente, professor Pievani? Questo è sempre possibile, le retrodatazioni sono molto frequenti, però diciamo il messaggio interessante vuol dire che prima di diventare esseri umani completi, con gli adattamenti tipici nostri, probabilmente c'è stato un lungo periodo di sperimentazione, diciamo così, di forme molto variabili che convivevano peraltro con i loro antenati, con le australopitecine e con altre forme, quindi è una storia diciamo di diversità, di grande diversità africana. Perché effettivamente 700.000 anni in più sono diciamo un'età effettivamente un po' più cospicua. Professor Telmo Pievani, io intanto la ringrazio molto, grazie professore. A voi. E poi capiremo magari anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che incidenza ha, ma già la spiegava in parte il professor Pievani. Siamo di fretta e quindi ci sentiamo tra pochissimo.